Sai, se avessimo più di una vita, le sprecheremmo tutte. Tanto sapremmo che non è finita. Non è l'eterno a rendere una cosa magnifica, ma sapere che domani potrebbe essere già svanita. Con gli occhi seguo il sole che cala verso il mare. Uno scatto basta, un clic nella testa per fermare questo attimo da conservare, con cui cenare ed evitare di affogare nelle solite fare, in quelle sere ricorrenti in cui i pensieri li senti, ti parlano a gran voce, sono esseri viventi che ti mangiano dentro e tu li temi. Per questo si prendono ogni spazio finché svieni, faccia sul cemento e resti lì, preda degli eventi. Ma poi ti svegli e apprendi che la vita non giustifica i perdenti. Stringi i denti, non sei sola, ognuno qua con batte la sua guerra e non ne fa parola. Farfalla vola, insegnaci la vita, non conta quanto è lunga. Ogni giorno tira un rigo sopra un calendario, appunta le cose che hai fatto, le cose che vuoi. Ti sbatti poi domani e ci guardi, sai che punto sei. Se avessimo più di una vita, le sprecheremo tutte. Tanto sapremo che non è finita, non è l'eterno a rendere una cosa magnifica, ma sapere che domani potrebbe essere svanita già. Se avessimo più di una vita, le sprecheremo tutte. Tanto sapremo che non è finita, non è l'eterno a rendere una cosa magnifica, ma sapere che domani potrebbe essere svanita già. Ricorda che sono i tuoi giorni, la tua vita, prendi le sue redini prima che sia sparita, come sabbia fra le dita, preziosa come una pepita. Svegliati e promettiti di custodirla, urla e libera quell'anima da ogni ombra. Genera un'onda profonda che sfonda ciò che la circonda, con la forza che hai sempre posseduto e col coraggio che invece fino ad oggi hai sempre trattenuto. Del vecchio tieni solo il buono e non buttare via tutto. Nello scrigno del passato trovi sempre un tesoro, ciò che hai scelto era il tuo oro. Ora scioglilo e facci un ciondolo, portalo al collo, consultalo, sarà il tuo punto fermo. Arriverà il momento in cui sarà soltanto ferro, perché il mondo l'ha rinchiuso, lo porti nel tuo interno, nel cuore, nello scheletro, e la rimarrà in eterno. Se avessimo più di una vita, le sprecheremo tutte. Tanto sapremo che non è finita, non è l'eterno a rendere una cosa magnifica, ma sapere che domani potrebbe essere svanita già. Se avessimo più di una vita, le sprecheremo tutte. Tanto sapremo che non è finita, non è l'eterno a rendere una cosa magnifica, ma sapere che domani potrebbe essere svanita già. Lo so, è facile parlarne, è più difficile applicarlo, ma non è impossibile, per questo prova a farlo. Coricarti ed essere grata per il giorno passato, per ogni bacio rubato, per un sorriso donato, per ogni cuore spezzato, per un amico ormai andato, per ciò che ti ha portato ad essere in questo stato, ti ha rafforzato. Se quando soffri o ti distruggi o diventi un carro armato, guardati negli occhi, non cessa quella fiamma che ti arde dentro forte e non si spegne ma ti scalda quando fuori è notte. Forse a volte ti ha salvato solo quel pensiero, cercare una luce in questo mondo nero. Cerchi il vero, anima pura, salta in sella ora il tuo destriero, impugna l'arco poi lo scudo come quel guerriero. La vita è un mare immenso, tu sei un veliero, lotta con le onde e il vento, sempre al limite tra terra e cielo. Se avessimo più di una vita, le sprecheremo tutte. Tanto sapremo che non è finita, non è l'eterno a rendere una cosa magnifica, ma sapere che domani potrebbe essere svanita già. Se avessimo più di una vita, le sprecheremo tutte. Tanto sapremo che non è finita, non è l'eterno a rendere una cosa magnifica, ma sapere che domani potrebbe